9 in punto, la versione di Oscar. Oh, how elaborate flies the end of everything that stands the end. No safety or surprise the end. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, si fa per dire, viste le notizie a cui comunque tenderemo aperte le orecchie nella nostra trasmissione, quindi liberi di interromperci, colleghi dell'informazione del GR, ove dovessero esserci sviluppi, sia per il sisma che ha colpito la zona padana della Bassa Lombardia e dell'Emilia in questi fine settimana, con vittime purtroppo e con ancora un seguito di scosse di assestamento anche questa notte, come per eventuali sviluppi per le indagini in corso per la strage Brindisi che ha portato alla morte di Melissa, che ha colpito durissimamente l'immaginario del paese, che si interroga intorno alla matrice di questo attentato, se si tratti di qualche cosa che abbia a che fare con la criminalità organizzata, un atto di puro terrorismo, oppure, come ha lasciato capire ieri il procuratore che conduce le indagini, di un atto di un pazzo sconsiderato, pur tuttavia essendo poi smentito, cosa che aggiunge le perplessità ovviamente nell'opinione pubblica, dalla procura antimafia, che ha detto no, questo filmato di cui i giornali parlano, che attesterebbe un individuo isolato, in realtà non identifica e non esaurisce le piste su cui si sta indagando. Devo dire che se gli inquirenti almeno evitassero di dividersi in pubblico, questo contribuirebbe a non far crescere ulteriormente le perplessità di un paese che, da vicende come questa, ovviamente ne ricava un fortissimo impatto sulla sua coesione. Quindi noi terremo, come ovvio, aperta la possibilità nel corso della trasmissione per essere interrotti per gli sviluppi di queste due vicende che hanno tenuto e tengono con il fiato sospeso gli italiani. Ma oggi continuiamo nel nostro mestiere, per così dire, ordinario. Sapete che questa è una trasmissione come quella di Sebastiano Barisone il pomeriggio, Focus Economia, che da settimana in settimana ha posto i temi della crescita e della sofferenza che abbiamo deciso di ascoltare, che proviene dal cuore profondo della piccola e piccolissima impresa italiana, con la campagna su Disperati Mai, @24.it, e abbiamo deciso, per così dire, di trasformare i diversi temi delle nostre puntate in una specie di pretesto per continuare a parlare esattamente di questo e per continuare poi a dare pubblicità alle lettere che ci arrivano e che continuano ad arrivarci, descrivendoci una situazione di profondissimo malcontento e talora che sfocia anche nella disperazione personale. E, per così dire, la maniera oggi di stare su questo tema è una maniera in realtà del tutto appropriata, perché ricordate che già nel passato abbiamo avuto occasione di presentarvi i libri ed avere lui ospite con ogni persona, una delle personalità che secondo me più ha contribuito in questi anni a tentare di mettere a fuoco nell'agenda nazionale le priorità vere rispetto a questo problema della bassa crescita italiana e della bassa produttività italiana, che in realtà non coincide con l'euro perché precede l'euro. Non si deve alla globalizzazione perché precede l'apertura alla Cina del WTO, perché è un problema che ci trasciniamo indietro da decenni, quello della bassa produttività e della bassa crescita. Ne parlammo quando uscì un suo libro che ha fatto molto discutere tutta Italia, ed era un libro sulla meritocrazia. E ne abbiamo riparlato quando è uscito poi il secondo libro di questa trilogia che si compie oggi, e il secondo titolo era Regole. E adesso il 23 in edicola, vi prego di non perdere la terza puntata di questo approfondimento, di questo carotaggio, come si fa quando si cerca sottoterra le falde petrolifere. E questo terzo titolo è Italia, cresci o esci. Ed è chiaro cosa voglia dire: o ritrova le chiavi per la crescita all'Italia, oppure fuori dal consesso internazionale, dall'euro, dall'Europa, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è con noi appunto l'autore, in questo caso uno dei due autori, ma è sempre lui, è Roger Abravanel, che prima di questo ha fatto tante altre cose nella vita, ha fatto consulente d'impresa, ha fatto capo di catena di consulenza d'impresa internazionale, è stato consigliere d'amministrazione di molte aziende italiane internazionali, insomma ha un'esperienza sul campo di decenni di come le diverse organizzazioni portano a più o meno elevata efficienza, e in rispetto a che cosa? Rispetto alle culture, all'organizzazione amministrativa pubblica, eccetera eccetera. Roger, grazie di essere con noi questa mattina. Grazie Oscar, volevo solo aggiungere che il ricavo dei miei tre saggi va in ben beneficenza, e quindi sappiate nel comprarlo che non state contribuendo ad arricchimenti personali, ma state contribuendo a una buona causa. Allora, in questo caso il libro Cresci o Esci serve innanzitutto a smentire molti dei luoghi comuni che parecchi di voi, e lo si vede quando ci mandate lettere eccetera eccetera, hanno in capo su che cosa sia alla origine della bassa crescita italiana. Ne vogliamo elencare qualcuno, Roger? Ma ce ne sono diversi. Io direi che forse uno dei miti che ci vengono raccontati di più sovente è che il nostro problema oggi è un problema di disoccupazione. Sicuramente abbiamo molti disoccupati, ma non ne abbiamo più che in altri paesi. Il nostro problema è un problema di inoccupati. Noi abbiamo circa su 40 milioni di italiani, 23 milioni lavorano, 57%, mentre per esempio in Germania e Regno Unito sono 70%. È abbastanza strano, sorprendente dire che l'aumento di disoccupazione che sta venendo da questa crisi, che sono circa 500.000 di persone, rappresenta circa un decimo dei 5 milioni di, chiamiamoli, inoccupati permanenti. Quindi qual è il nostro problema? Cos'è sto fantomatico PIL di cui tutti parlano? PIL vuol dire lavorare. Il problema degli italiani è che da sempre lavorano poco. Non è che quando lavorano poco, anzi quando lavorano più di tutti. Solo i greci ci battono, guarda, interessante questo. Ma è che lavorano in pochi. Abbiamo tuttora un sacco di pensionati giovani. Nel 2011 l'età media di pensionamento è 58 anni. E poi c'è una quantità di giovani e di donne che non sono sul mercato del lavoro. Allora, questo tema, quando si lancia così e si fa riflettere sul fatto che in troppo pochi partecipiamo al mercato del lavoro, cioè significa che rimaniamo 12 punti in media sotto i tedeschi, rispetto alla componente giovanile 18 punti meno dei tedeschi, sulla componente femminile 23-25 sopra i 55 anni, cioè queste percentuali sono quelli che lì partecipano più di noi. La risposta che viene dalla gente è: ho capito, ma di che cosa state parlando se qui manca il lavoro ed è per questo che così pochi partecipano al mercato del lavoro? E allora perché manca il lavoro? Perché manca il lavoro? Manca il lavoro perché le imprese italiane non crescono, perché alla fine dov'è che si lavora? Si lavora nelle aziende e le aziende italiane non crescono. Noi abbiamo ancora, siamo dietro tantissimi di questi miti del passato. Per esempio il primo mito era piccolo e bello. Il problema è che le piccole imprese sono fantastiche, però poi alla fine devono crescere. Noi abbiamo, ti do un esempio, noi abbiamo inventato il turismo. Il turismo è una delle fonti di crescita, potremmo aumentare il PIL di 2%, ma se vai a vedere il numero di catene alberghiere che ci sono da noi, sono soltanto il 6% di tutti gli esercizi, contro il 70% in America, il 31% in Francia, il 22% in Spagna. Noi abbiamo un enorme proliferare di piccolissime imprese turistiche che naturalmente non hanno il patrimonio per migliorare il valore aggiunto dei servizi, e la gente poi vanno in Spagna, prendi le sci, prendi lo sci, che ci piace tanto. L'Italia ha il 22% delle piste sciabili delle Alpi e ha soltanto il 12% di quota di mercato. Abbiamo il doppio degli svizzeri come piste, ma abbiamo la metà dei visitatori. Perché? Perché la gente vuole andare in organizzazione. Quindi il problema è che se non si diventa grandi o medio grandi, non si può dare organizzazione. Un altro mito che abbiamo sentito tante volte è questo: dobbiamo copiare la Germania. Noi non possiamo copiare la Germania, siamo manufatturieri, ma se vai, perché non c'è una ricetta uguale per tutti, ovviamente no. Ognuno ha la storia, la tradizione, l'impresa, esatto, le specializzazioni produttive e così via. Però il problema, se noi ci paragoniamo alla Germania, Oscar, è vero, noi abbiamo, se prendiamo le aziende sotto 50 milioni di fatturato, quindi quelle piccole, noi ne abbiamo 1,2 milioni, i tedeschi ne hanno 2 milioni, quindi il rapporto è come più o meno quello del PIL, 1,7 a 1. Ma quando vediamo quelle grandi, sopra medie grandi, loro ne hanno 6-7 volte noi. Le piccole imprese devono diventare grandi a un certo punto. Un altro mito di quelli che abbiamo sentito è quello del Made in Italy. Mi dispiace dirlo, la lambretta che... Purtroppo io sono nel consiglio di amministrazione della Luxottica. La Luxottica non è più Made in Italy, è Made in Italy e Cina. Ti faccio presente che da quando abbiamo aperto in Cina abbiamo raddoppiato il numero di persone che occupiamo in Italia. Poi però è vero che abbiamo... Italia, avete capito bene? Ecco, cioè stare Italia, fuori, cioè, non vuol dire... è una delle radici attraverso le quali non solo... solo si difenda l'insediamento qui, ma si amplia in Italia. Chi non è internazionalizzato si comprime sempre più e compromette. Ti do un dato che la gente non sa: da quando abbiamo aperto la fabbrica in Cina, gli addetti ad Agordo sono passati da 2700 a 7000. E però abbiamo i marchi italiani. Sì, abbiamo i marchi italiani, Armani, ma abbiamo anche Oakley, abbiamo anche Ray-Ban. Quindi il concetto, certo, del made in Italy è finito. Perché è finito? Perché il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato. Oggi tutti coloro che vorrebbero risolvere il problema di questa crisi tornando al passato, le piccole aziende, alla localizzazione sul territorio, non capiscono che il mondo è cambiato. C'è un'economia di servizi, c'è la tecnologia, la popolazione invecchia e la crescita è tutta in paesi emergenti. Noi abbiamo un'economia che non si è adeguata alla realtà post-industriale. L'economia in 40 anni è passata da industriale a post-industriale e in 100 anni da agricoltura a industriale. Aspetta, ti blocco qui perché questo è un altro punto fondamentale. È un punto fondamentale perché di solito quando si guarda le matrici di input-output e che cosa questo determina il più della crescita a breve del nostro paese, che è molto insoddisfacente da molti anni, però quando si va a vedere che cos'è che la determina in questi anni di crescita così insoddisfacente e di produttività di molti punti persi nella graduatoria internazionale, prima era due terzi, poi è diventato il 70, oggi siamo quasi l'80% della pochissima crescita a breve col segno positivo lo dobbiamo proprio alla manifattura che esporta. Allora, su questo c'è un classico del dibattito nazionale. Chi diceva che l'Italia deve affrontare la trasformazione a più alta produttività di tutto il comparto dei servizi, quindi il mercato domestico significa la pubblica amministrazione, ma anche pezzi interi di mercato dei servizi che sono a basso valore aggiunto per colpa dei privati che non sono stati in grado di fare questo salto, o perché magari l'ambiente regolatorio pubblico gli mantiene le belle nicchie di produttività, ottiene da sempre la risposta che dice: ma no, guardate che in realtà la forza, il residuo del nostro paese è tutta perché non abbiamo seguito questa strada e siamo rimasti con la manifattura da cui facciamo l'80% a breve della crescita. Ma è sempre così da noi, cioè o l'uno o l'altro, bisogna avere tutte e due. Oh. Il nostro manufatturiero è una cosa fantastica che dobbiamo proteggere, dobbiamo far evolvere, perché se tu pensi, la Luxottica, uso l'esempio, è nata come una fabbrica che faceva sto pezzettino di occhiali. Oggi noi abbiamo 7000 negozi in America. E quindi ha integrato l'offerta dei servizi. Di produzione con e dopodiché però c'è tutto i servizi, ci sono le telecomunicazioni, le banche, il commercio, le assicurazioni, che sono aree dove noi dobbiamo creare molti posti di lavoro. Ti faccio presente che, come tu sai, l'attività manufatturiera che cresce, si globalizza, cresce. È vero che Luxottica ha creato lavoro in Italia, però crea anche lavoro in Cina, quindi fa crescere il PIL della Cina. Noi dobbiamo rilanciare l'economia di servizi. Allora, a questo punto, scusa, il problema che io sostengo nel mio saggio è che noi abbiamo... Perché il governo Monti più di tanto così non può fare, anche ammettesso che facesse le cose giuste, possiamo anche discutere, io ho tutto un capitolo che si chiama Full Monti nel mio saggio. Perché a noi manca la cultura della crescita. La cultura della crescita che purtroppo è necessario per fare questo passaggio. E qui si collega con meritocrazia e regole. Che cos'è che determina lo sviluppo di questa società industriale? È il capitale umano, è la possibilità di valorizzare le persone. La società post-industriale non è come i tempi della fabbrica dove c'era un signore che diceva cosa produrre e gli operai che producevano. La società post-industriale è fatta di persone sviluppate, colte, che hanno un livello di istruzione e che lavorano insieme. La meritocrazia vuol dire questo. Le regole sono fondamentali per la meritocrazia. Perché? Io sono un tifoso di calcio, no? Temo che tu stia... Sono dalla parte sbagliata. La Juve ha perso col Napoli. Ha vinto la scudetta. Però. Se Del Piero avesse voluto raccomandare un suo cugino meno amato alla Juventus, non l'avrebbero mai preso. Perché? Perché la Juventus sarebbe andata in Serie B. Perché la meritocrazia nel calcio esiste? Perché c'è la concorrenza. Ti posso però obiettare su questo? Te l'ho sentita dire qualche giorno fa, abbiamo presentato appunto questi temi nell'ambito di una iniziativa collegata che vi voglio comunque ricordare, proprio per la meritocrazia, con questo forum per la meritocrazia che ha tenuto questa settimana un evento con 1500 persone ed è diventato un forum intorno al quale online ci sono più di 100.000 followers, quindi è uno dei temi molto sentiti nella comunità italiana, soprattutto da chi è giovane, ovviamente, di fronte alla negazione sistematica di questa meritocrazia. Hai fatto questo esempio. Lì per lì mi è venuto da obiettare, però, E questo non riguarda, guarda, la Juventus, perché io sono che riguarda il calcio italiano, sì, che il calcio italiano è l'esempio classico invece del fatto che più o meno è vero quello che dici tu, però da decenni la verità è che anche lì è tutto violato, perché ci si mette d'accordo sulle partite. Mi hai beccato, nel senso che anche nel calcio dove c'è la concorrenza, anche in questo in Italia siamo riusciti a falsarla. Cioè, quindi quello è il problema, però, davvero, però, una mancanza, allora, di regole, bravo, perché, no, perché lì di adesione spontanea alle regole, perché le regole in teoria ci sono. No, ecco. Sì. Però allora qui entriamo in un tema molto importante che gli imprenditori spesso non hanno capito. Qual è uno dei miti che stiamo sentendo? Ci sono troppe regole. Il problema è che nell'economia di servizi tu non puoi fare a meno di regole. Non puoi fare a meno di regole perché devi definire, proteggere un po' il consumatore. Allora ti faccio un esempio banalissimo che ho coperto nel mio saggio. Noi abbiamo le assicurazioni auto più care del mondo, in particolare d'Europa. Perché? Perché abbiamo un circolo vizioso di regole che parte da questa idea: bisogna proteggere per forza l'assicurato. Quindi a questo punto che cosa succede? I colpi di frusta non vengono accettati, e a questo punto, se i colpi di frusta, che noi abbiamo, siamo il record man dei colpi di frusta, in particolare a Napoli, a questo punto che cosa succede? Che le società assicurazioni, che hanno dei costi dei sinistri alti, fanno alzare il costo delle polizze. A questo punto cosa succede? Gli italiani evadono, e abbiamo 3 milioni di persone che non sono assicurati e guidano, ma interviene immediatamente lo Stato per proteggere di nuovo l'assicurato e bastonare la società assicurazione, e il circolo si è. Noi abbiamo questo circolo vizioso in base al quale cosa c'è? Ci sono delle regole sbagliate, non vengono rispettate, lo Stato ne fa ancora di peggio, e a questo punto siamo avviluppati. Io ho spiegato che questo è quello che non permette la nascita della concorrenza, e l'esempio cardine di tutto questo, e qui non vorrei entrare, insomma, è un po' il sommerso. Questo sommerso che è così negativo non soltanto perché toglie risorse allo Stato, ma perché falsa la concorrenza. Tutto questo si spiega, Oscari, perché dopo aver analizzato tutte queste cose, noi abbiamo analizzato il programma di Monti, e abbiamo detto che Mario Monti ha fatto delle cose straordinarie ed è tuttora probabilmente il miglior presidente il consiglio che abbiamo avuto. Però attento, questa, che dicendo di questo susciti un tale coro di fischi dai nostri ascoltatori, ma purtroppo dobbiamo abbastanza a lui il fatto che il nostro spread si fosse fermato. Sì, perché noi eravamo diventati il detonatore dell'euro, e grazie agli interventi della prima settimana ci siamo levati da quella condizione. Il problema è che nella fase 2, quella della crescita, sta mancando clamorosamente. Perché? Perché per fare cambiare una cultura di un paese non lo fai in 6 mesi, lo fai in molti anni, hai bisogno degli interventi molto molto più radicali di quelli che sono stati messi in campo. Ed è così che nel mio saggio io ho analizzato ognuno dei, col mio coautore, degli interventi sulle liberalizzazioni, sulla riforma del lavoro, sull'evasione fiscale, sullo Stato, sulla spending review. E quelli che non sono stati ancora fatti, che sono determinanti, Oscar, la giustizia civile e l'istruzione. Tu non potrai mai liberalizzare niente in un paese se la giustizia civile continua a essere come quella dei tempi del Gabon, con i tempi del Gabon. Noi non potremo, la giustizia civile è fondamentale, e su quello non è ancora stato fatto nulla. Quindi io ho sviluppato nel mio saggio una specie di visione per la crescita, una cosa che per spiegare agli italiani che alcuni dei sacrifici che bisogna fare oggi è importante, ma c'è la luce oltre il tunnel. Se vuoi, adesso non abbiamo tempo e possiamo prendere uno o due. Allora, aspetta, però, che prima di andare in pubblicità ti faccio un esempio del come, naturalmente, questo pubblico di questa trasmissione è abituato purtroppo a sentire solo dei classici temi, una delle tre morse che si stringono intorno al collo adesso della continuità della piccola impresa, perché da una parte ci sono le pretese aumentate dello Stato, dall'altra c'è il credit crunch, la terza è che tutti sono diventati cattivi pagatori, e mi dispiace dovervi dire che per il momento i decreti attuativi di cui si sta parlando per sbloccare i 70 miliardi di debiti commerciali che lo Stato non paga e i 30 miliardi di crediti fiscali che lo Stato non paga, per il momento mi sembrano larghissimamente insoddisfacenti. E leggiamo una delle tante testimonianze. Questo è Luigi Giordano che ci scrive, dottore commercialista di Milano. Dice: mai come in questi tempi, ci scrive Giordano, vorrei fare un altro lavoro. Il mio è uno sfogo su quei piccoli ma efferati abusi che vengono perpetrati ogni giorno negli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Da premettere che io non ce l'ho col personale dell'Agenzia di Equitalia, non ce l'ho con con Befera, non ce l'ho con nessuno della sua squadra. Il problema però è che cosa in concreto arriva alle imprese, ai contribuenti e a noi che ne siamo il filtro messi sotto martello da entrambi. Allora, quello che mi è successo quest'oggi ha dell'incredibile. La storia parte dal febbraio di quest'anno, quando un'azienda medio-piccola che svolge attività nel ramo commerciale ingrosso si vede recapitare un avviso bonario di circa 50.000 euro per IRES e IVA non versata. L'imprenditore, avendo pagato tutto, appena apre la busta recapitata gli in sede, per poco non sviene data la cifra, che rappresenta una cospicua fetta del suo attuale fatturato, che con la crisi si è ridotto di oltre il 50%. Così che intervengo io, rassicuro l'imprenditore, prendo in carico l'avviso e copio di tutti i versamenti F24 regolarmente effettuati, perché così è anche il mio riscontro a testimoniare. In prima battuta mi reco all'Agenzia delle Entrate di Sesto San Giovanni, dove viene riscontrato l'errore. In pratica, la dichiarazione integrativa presentata per meri errori formali non sono stati abbinati tutti i versamenti, però regolarmente effettuati dal contribuente. Il funzionario che mi riceve, previo appuntamento, riconosce l'errore, ma dato l'importo rilevante dell'avviso mi dice che si deve far firmare lo sgravio dal suo superiore. E così scompare. Al rientro mi dice che l'agenzia riconosce l'errore, ma che il sottoscritto deve prendere un altro appuntamento, poiché per abbinare informaticamente i circa 12 F24 regolarmente versati c'è bisogno di tempo, e siccome il mio appuntamento scade dopo mezz'ora non è possibile farlo in quel momento. Allora d'accordo, dico io, prendo l'avviso, esco, informo il cliente, lo riassicuro che è tutto in regola, ma che bisognerà ritornare per avere il foglio con lo sgravio dell'avviso. Per prenotare altro appuntamento all'Agenzia delle Entrate passano diversi giorni. Così, di concerto con il mio cliente, decidiamo di aspettare la cartella di Equitalia. L'avviso bonario, infatti, a scadenza dei 30 giorni. Successivamente si trasforma automaticamente in cartella. Il debito fiscale a quel punto passa ad Equitalia con le sanzioni piene, perché è avvenuta la messa a ruolo. Arriva la cartella di Equitalia, gli euro sono diventati da 50 a 64 mila rotti. Prendo appuntamento per l'autotutela presso lo sportello di Milano, eccetera, eccetera, laddove vengo ricevuto da un altro funzionario. La dottoressa, dopo avermi fatto spiegare tutta la situazione ed avendo lei stessa verificato tramite sistema interno la banalità dell'errore, mi dice che va tutto bene, ma anche in questo caso deve parlare con un suo superiore, perché la firma allo sgravio è diventata di responsabilità ancora più elevata. Scompare così anche ella. Al ritorno mi dice che l'appuntamento è oramai finito e che non può abbinare i versamenti regolarmente effettuati perché la mezz'ora è scaduta. A quel punto iniziano le mie rimostranze, faccio notare al funzionario che la cartella è in scadenza nei prossimi 30 giorni e quindi riprende il nuovo appuntamento per lo sgravio. Il funzionario, se si reca all'agenzia e non trova appuntamenti, a quel punto noi siamo obbligati a pagare tutto e subito con gli interessi, quando in realtà a due livelli, funzionari prima dell'agenzia e poi di Equitalia, ci hanno dato ragione. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pagare 64.000 euro che voi stessi riconoscete non sono dovuti allo Stato? La risposta sono le classiche spallucce. A quel punto io intervengo alterato, minaccio non solo il ricorso in commissione tributaria ma la citazione di merito di due funzionari, nome e cognome, per l'addebito delle spese di giudizio che quantificherò in euro 3.000. A quel punto la faccia del funzionario cambia. La domanda che mi pone è: vuole fare ricorso? E perché? A quel punto la mia impressione, e sono un professionista della materia, è quella di parlare con un marziano, con uno che non sa cosa significhi per un'azienda pagare 64.000 euro non dovuti. A questo punto, dopo trattative estenuanti, mi dice che può fare solo una cosa, ovvero protocollare la mia istanza e aspettare di lavorarla, avvertendomi che dal 31 maggio fino all'11 di giugno lei sarà in ferie e che quindi non sa proprio se troverà il tempo per farla. Non ci vedo più. Così rispondo che preparerò il ricorso con le eventuali citazioni e che qualora non dovessi ottenere lo sgravio da recapitarsi alla sede locale dell'azienda entro il 5 di giugno il ricorso verrà inoltrato in commissione tributaria. Ecco, questo è quello che purtroppo c'è dietro l'aspetto di efficienza, per il quale, io ripeto, bisogna ringraziare Befera, ma nella vita concreta il contribuente di fronte a questo capisco che abbia voglia di compiere atti a volte anche fuori dal giustificato nei confronti di questo Stato che in questo modo si rivolge ai suoi contribuenti. Che dire? Oscar, ho tutto un capitolo sul tema dell'evasione. Chi ti parla è uno che ha sofferto queste cose in maniera significativa e esempi come questi ne abbiamo a decine. Però credo che in questo momento il più grave errore sarebbe quello di giustificare per colpa dell'incredibile inefficienza della macchina pubblica, che non è solo sull'evasione, lo sai meglio di me, non è soltanto sulla riscossione delle tasse, sull'INPS, sulla sanità pubblica al SUCE, il non pagare le tasse. Per per una ragione molto semplice, che oggi, come tu mi hai ricordato molto bene, la nostra esposizione sul PIL legale, sul vero PIL, è alle stelle. Ma questo perché? In parte perché lo Stato costa tanto, ma in parte perché quelli come noi che paghiamo le tasse, ne paghiamo uno sproposito perché c'è una quantità enorme di persone che non le pagano. E quindi entriamo in quel famoso circolo vizioso, perché cosa succede? Che c'è una parte di persone che non pagano le tasse, a questo punto si fanno delle regole assurde e l'inefficienza aumenta, e a questo punto si evadono ancora di più e se ne faranno di più. Allora, su questo punto preciso, adesso andiamo in pubblicità e quando torniamo illustri brevemente una delle proposte che avanza nel libro, a proposito del fatto che l'amministrazione tributaria dovrebbe diventare più all'americana, insomma. Eccoci tornati in studio. Allora, Roger Abrave, ne stiamo parlando, il titolo del saggio che esce in libreria il 23 Italia, Cresci o Esci, scritto insieme a Luca Dagnese, rivisitazione critica, il rilancio dei maggiori temi, delle ragioni più meno battute nel dibattito pubblico sul rifare salire la crescita italiana e la produttività. Eravamo arrivati a un punto: come trasformare l'apparato tributario italiano in qualcosa di più simile all'efficienza americana? Allora io direi, mettiamolo un pochino più ampio, noi abbiamo detto che ci dobbiamo fare è necessaria una visione della crescita. Una delle visioni degli elementi chiave basati su regole, produttività e meritocrazia è una decisa lotta al sommerso e all'evasione, e questo governo in parte l'ha avviata. Molti italiani apprezzano oggi quando appare giusta, si colpiscono gli evasori ricchi e poi si comincia, c'è un po' questo senso che si comincia a chiedere lo scontrino. Però questo non basta. Se vogliamo fare una cosa veramente seria, che sia equa, è importante tre o quattro cose. La prima cosa da fare è che una comunicazione da parte del governo di un obiettivo di recupero in termini di incasso, non di accertato, e la traduzione di questo che vuol dire in riduzione di IRPEF, cioè il governo deve dire: io se faccio così entro 4 anni recupero tanto e te ne do tanto nella a chi le tasse le paga. Questo è il primo, che non è stata fatta, l'hanno provata, l'hanno girata. La seconda cosa che bisogna fare è un problema di organizzazione, e quindi ti faccio l'esempio del IRS, che se vuoi l'Internal Revenue Service, che una somma di Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e anche PM. Questi signori in America, dove le tasse le pagano, recuperano, incassano, non accertano, 50 miliardi di tasse con 100.000 persone. In Italia abbiamo 100.000 persone e incassiamo 11 miliardi. C'è quindi un problema di una macchina organizzativa, e i problemi di cui tu hai parlato prima sono i classici problemi di un'organizzazione pubblica, che affronteremo poi sul tema spending review, che ha un problema di fondo, un problema di persone, di talenti e anche di trasparenza delle informazioni. Perché il problema della nostra, qui entro a un'altra delle proposte del mio saggio, la famosa spending review, il taglio agli sprechi. Se noi vogliamo veramente avere impatto su questa macchina, che costa ma soprattutto che dà una qualità di servizio inadeguata, bisogna immediatamente inserire delle persone valide nella struttura. Di avere persone brave nella pubblica amministrazione, perché senza persone brave nella pubblica amministrazione non otterrai nulla. La seconda cosa che bisogna fare, ci vuole un po' di trasparenza. Se io guardo i bilanci dello Stato, io so leggere i bilanci, Oscar, non capisco niente. Assolutamente no, questo non capisco nulla. Anche quando li portiamo agli studenti, io so, è l'esempio del che cosa, come non fare un bilancio, o meglio, come fare un bilancio ordinato al fine di non far capire nulla. E quindi sono anche preoccupato per questo approccio del governo Monti alla spending review, come se fosse il taglio. Ogni spesa in più che tu hai è il risultato di una legge, di una scelta, no? Se tu vai su internet e prendi il bilancio del governo inglese, la spending review inglese, vedi una cosa fatta con tante piccole bubble, delle palline rosse e gialle, quelle rosse sono rosse e blu, quelle rosse sono quelle in cui si riduce la spesa e blu quelle in cui si aumenta. Quindi cosa vuol dire? Bisogna fare delle scelte. Certo. Chi fa queste scelte? Chi lo fa? Ci vogliono persone di valore, e poi ci vuole anche la capacità di coinvolgere in maniera trasparente i cittadini su queste scelte. Voglio spendere un po' meno sulla sanità al nord, piuttosto che, sono tante scelte che bisogna fare. Per far questo è necessario, ed è un'altra delle proposte che io ho fatto, ripensare l'architettura di questo Stato. L'architettura. Noi abbiamo la spesa pubblica nostra è articolata su tantissimi livelli. È molto importante ridisegnarla. Per esempio, noi trattiamo Milano come un comune di 500 abitanti. La Thatcher ha ridisegnato completamente la struttura dei comuni. Qualche caso c'è il comune, qualche caso ci sono le commissioni. L'idea di abolire le province è solo una piccola cosa. Noi abbiamo una quantità di costi molto elevata nel territorio. E per far questo non lo fai a poco tempo. Nel mio saggio racconto la storia di quello che ha fatto nel 1950 il presidente statunitense, nominando un ex presidente Hoover, che ha ridisegnato completamente la struttura di costi del governo americano e ha ridisegnato tutta l'architettura e ha fatto 150 raccomandazioni organizzative che hanno ridisegnato completamente il sistema. Sai che cosa può succedere? Rivedere completamente il modello di federalismo. Questo vuol dire ripensare il famoso federalismo. Quindi, guardando fuori, guardando quello che è stato fatto per la macchina dello Stato in altri paesi e soprattutto guardando quello che paesi emergenti hanno fatto per portare talenti, Singapore è la miglior pubblica amministrazione del mondo, però prende persone eccellenti, giovani, di selezione da quando hanno 13 anni, li manda nelle migliori scuole e li paga molto bene. O facciamo così. Non è che Singapore è anche l'esempio del fatto che per avere efficienza, diciamo, ci sono dei limiti alla democrazia, perché insomma nella storia di quella città-stato il modello autoritario del fondatore è un modello, diciamo, di democrazia molto sorvegliata, chiamiamola così. Diciamo che funziona, sono d'accordissimo. Fu il rischio di un sistema di questo genere che finché va bene, il momento che devono cambiare a questo punto bisogna fare, però puntano molto sulla meritocrazia. Ti faccio un altro esempio che ci viene anche qui da un commercialista, questo commercialista si chiama Enrico Caffo da Genova, che ci dice: dunque, io sono di quelli, lui si chiama un mediatore di legalità, dice questo commercialista, perché io naturalmente rappresento i miei clienti che vogliono assolutamente pagare le tasse e quando si trovano di fronte a complicazioni o magari a importi contestati eccetera eccetera, sono pronti ha una dialettica nell'ambito pure di un contenzioso in cui, lo ricordo tutto, il giudice tributario in Italia non è giudice terzo, è il giudice che appartiene all'amministrazione finanziaria, qui si è obbligati a depositare un terzo per andare in contenzioso, però alla fine ci scrive Caffo, le cose sono queste allo sportello. Quando si tratta di andare a pagare, cioè di dire siamo d'accordo, pago, si va a Equitalia. Lo sportello non accetta importi in contanti per più di 1000 euro e a nulla vale rendersi disponibile autonomamente alla segnalazione antiriciclaggio. Dice, allora se non si paga per più di 1000 euro in contanti, come si può pagare? Dice, il contribuente dice, se avesse un bancomat, anche col bancomat non può pagare un importo superiore ai 1000 euro. Perché? Perché Equitalia non accetta pagamenti superiori ai 1000 euro con il bancomat. Perché? Perché una regola di Equitalia dice così. E allora con la carta di credito? No, anche per la carta di credito Equitalia accetta pagamenti con limite a 1000 euro, perché a quel punto il responsabile dietro lo sportello, ci scrive Enrico Caffo, ti segnala la precisa norma con la quale il limite operativo è come per il bancomat. E se il contribuente si presenta con un assegno circolare? Bisogna fare attenzione, perché Equitalia non può dare resti per importi superiori a 50 euro, perché quello lo sportello ti dice, perché c'è una regola che dice così. Ecco, queste sono le enumerazioni di come funziona persino per chi vuole pagare l'amministrazione tributaria nel nostro paese. Veniamo dopo le strade, abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, un minuto, e poi tocchiamo almeno a volo d'uccello gli altri punti delle riforme che esaminate nel libro per alzare crescita e produttività. E mente torna The End, solo un flash sull'Europa, perché i giornali europei sono pieni dei resoconti del G8 in cui a Monti e Hollande viene attribuita la volontà di arrivare all'Eurovertice del 23 con una proposta esplicita sugli eurobond, compresa l'assunzione a parte a livello europeo di parte dei debiti sovrani. È una delle questioni sulle quali secondo me è molto più difficile immaginare che davvero la Merkel possa arrivare a questo. Poi project bonds infrastrutturali quanto volete, ma il problema dei debiti sovrani messi con strumenti cooperativi europei, io credo che questo sia abbastanza insuperabile. Oggi vi segnalo anche che in Grecia Katemerici segnala che purtroppo, dico io, Syriza, cioè sinistra radicale del partito di Tsipras, è tornato in testa nei sondaggi, quindi sfuma, e sarà questo un po' il criterio su cui leggere tutto l'avvicinarsi alla campagna elettorale del 17 giugno. Ci eravamo lasciati venerdì con Nea Demokratia e il PASOK, che avevano in teoria la maggioranza nei primi sondaggi. Ora i greci, per reazione ai tedeschi su questa cosa del referendum, a tenere o meno, stanno di nuovo premiando i partiti euroradicali. Tentiamo di toccare almeno altri temi che sono questo libro, Italia cresce esci, il libro esce 23 per Garzanti di Roger Abravanel. Luca D'Agnese. C'è un capitolo sulla riforma del mercato del lavoro, un giudizio sulla riforma del mercato del lavoro proposta da Monti e Fornero, e poi c'è anche una proposta finale di un manifesto per i giovani italiani. Dunque, vi ricordo, allora, riforma del lavoro. Cioè, secondo noi c'è stato un vero il problema di fondo non è stato veramente affrontato nel modo giusto, perché oggi tutto il dibattito sulla riforma del lavoro è stato impostato per rendere più facili i licenziamenti. Molti economisti che dicono bisogna poter licenziare quando il ciclo è negativo. Questo è un mito, perché in Italia è abbastanza facile, sicuramente più facile licenziare, parlo anche delle grandi aziende, delle piccole non parliamo, che in Francia. Cioè i licenziamenti collettivi qua in realtà sono spediti. Sono sempre spediti. Allora, quelli, il problema che noi abbiamo in Italia è un altro, che è drammatico, che è un problema di produttività. Perché se noi dividiamo i nostri occupati in Italia, abbiamo quello che Pietro Ichino chiama un apartheid, però lui ne fa un fatto di equità giustamente, ma è un problema di produttività. Noi abbiamo 12 milioni di lavoratori che sono molto protetti, sono 4 nel settore pubblico e 8 nelle aziende sopra i 15. Questi signori qui sono di fatto inamovibili, sono licenziabili in caso di crisi, però a questo punto c'è la cassa integrazione e quindi sono protetti. Poi abbiamo 9 milioni che sono fatti da 5 milioni che sono in... sono precarie, tempo determinato, partita IVA, e altri 4 milioni che sono invece dipendenti in aziende sotto il livello dei 15, quindi non protetti dall'articolo 18, che sono licenziabilissime senza vincoli, ma soprattutto questo non è un problema solo di inequità, è un problema di produttività, perché il softwareista che è partita IVA, che lavora per una media azienda, sicuramente non riceve la formazione necessaria per crescere, e poi il momento che bisogna fare carriera, l'azienda sicuramente privilegerà la persona che è dentro. E secondo te della riforma Monti-Fornero viene la risposta a questo? Assolutamente no, assolutamente il problema non è stato affrontato, prima di tutto perché si sono creati un sacco di disincentivi alle piccole aziende a questo punto questa libertà, ma non si sono creati gli incentivi. Esatto. Perché? Perché non si è ridotto il cuneo fiscale, poi la seconda cosa che non si è fatto, non si è creato un ammortizzatore sociale serio per poter invece rendere il lavoro molto più flessibile, poter licenziare chiunque. Per dare un sostegno al reddito a chi lo perde e non per difendere, non tentare per difendere il lavoro dov'è, com'è. E la cosa più grave è, torno alla giustizia civile, che la meritocrazia, oggi in Italia si può licenziare anche una media grande azienda, qualcuno per giusta causa, anche se qualcuno che al limite ha rubato, poi alla fine ci sono dei problemi, ma una persona che invece semplicemente fa male il proprio lavoro, questa persona non è licenziabile. Ora, in un'economia industriale, quando è una persona che lavora sulla linea di montaggio, il danno è meno grave, ma quando è un infermiere che fa un'iniezione sbagliata, diciamo, quando è un addetto al call center, devi poterlo licenziare. E con tempi di giustizia civile premiare... che non sono quelli di anni e anni di incertezza. Esatto, con la giustizia civile. Allora, tutti questi temi non sono stati affrontati. L'altro tema chiave che non è stato affrontato, francamente, è quello delle liberalizzazioni, che come tu sai è il mio... altro che. Allora, aspetta un secondo, sì. Vediamo una rapida telefonata. Rita da Lodi, prego Rita. Sì, volevo dire proprio questo, cioè alla fine della fiera ci vanno di mezzo sempre gli imprenditori. Perché? Perché nelle piccole imprese, le faccio il nostro esempio, noi abbiamo un'azienda di servizi, abbiamo dei picchi di lavoro che non durano tutto l'anno, che possono anche durare pochi mesi. Ecco, non si ha l'opportunità di poter prendere delle persone, pagarle adeguatamente con tutti i contributi, con tutte le cose. Perché? Perché lo Stato non te lo fa fare, perché devi assumere per forza a tempo indeterminato, devi assumere per forza se a certi livelli. No, e purtroppo con questa riforma nei canali di ingresso, il giro di vite purtroppo è facile da prevedere, per come vanno le cose, che diminuisca ulteriormente la domanda delle imprese. C'era un peccato originale nella riforma, sì. Fornero. Che è il problema, che tu il welfare lo devi riformare dall'inizio. Esatto. Non avendo attaccato le pensioni di anzianità, ma non così drasticamente, e quindi è già, noi quest'anno abbiamo ancora un sacco di gente che va in pensione a 58 anni. A 58 anni. Questo punto non ha più le risorse per poter avere gli ammortizzatori sociali. E la seconda cosa che non ha fatto, non ha controllato la cassa integrazione. Ti devo fermare e dire a tutti, 23, Italia cresce, esce, Roger Abravanel, serviva un'altra puntata, ci risentiamo prossimamente, perché vedrai che anche su questo girerà l'Italia in 100 incontri come è successo con meritocrazia. A domani! Radio 24, la passione si sente.